Libro settimo, il riscatto finale. 1. Il ritorno al mulino. Tra le 4 e le 5 pomeridiane, 5 giorni dopo che Steven e Maggie avevano lasciato St. Oaks, Tom Tulliver era fermo sul viale presso la vecchia casa del mulino di Dorlcote. Ormai egli ne era il padrone, aveva quasi interamente esaudito le ultime volontà del padre e con anni di rigoroso controllo su se stesso e di energico lavoro era vicino a conquistarsi qualcosa di più della vecchia rispettabilità che era stata orgogliosa tradizione dei Dodson e dei Tulliver. Ma, fermo nel sole ancor caldo di quel pomeriggio d'estate, non gli si leggeva in viso né contentezza né trionfo. Sulla bocca gli si disegnava la piega più amara, la fronte severa era segnata dalle rughe più dure e profonde, allorché, calato il cappello sugli occhi per difenderli dal sole e sprofondate le mani nelle tasche, si mise a passeggiare su e giù per il viale. Della sorella non erano più giunte notizie, da quando Bob Jakin, tornato da Mudport col vapore, aveva messo fine a tutte le improbabili ipotesi di un accidente sul fiume, dichiarando d'averla veduta sbarcare da un battello in compagnia di Mr. Stephen Guest. Le prossime notizie sarebbero state che si era sposata? O che altro? Probabile che non si fosse sposata. L'animo di Tom era preparato ad aspettarsi il peggio, non la morte, ma il disonore. Mentre egli passeggiava, volgendo le spalle al cancello d'entrata e il viso verso l'impetuoso canale del mulino, un'alta persona dagli occhi neri che noi conosciamo bene si accostò al cancello e si fermò a guardare col cuore che le batteva veloce. Il fratello era l'essere umano di cui aveva avuto più paura fin dalla prima infanzia, quella paura che ci viene quando amiamo qualcuno che è inesorabile, inflessibile, ostinato, sul cui carattere non potremo mai modellarci e che tuttavia non sapremmo patire di renderci alieno. Questa paura intima e radicata faceva ora trasalire Maggie, che però era incrollabilmente decisa di tornare al fratello come al rifugio che per natura le era stato concesso. Profondamente umiliata a riandare la propria debolezza, angosciata per le offese che aveva inflitte, quasi desiderava di avere a soffrire la severità della riprovazione di Tom, di sottomettersi in paziente silenzio a quell'aspro giudizio di condanna contro cui si era così spesso ribellata. Ora esso le pareva semplicemente giusto. Chi più debole di lei anelava a quel soccorso che i suoi migliori propositi avrebbero trovato in una confessione umile e completa, nella presenza di chi poteva rispecchiare con gli sguardi e le parole la sua intima coscienza. Maggie era dovuta rimanere in letto a York per un giorno con quell'opprimente emicrania che era naturale dovesse tenere dietro al terribile logorio del giorno e della notte precedenti. Ancora le rimaneva sulla fronte e sugli occhi un'espressione di sofferenza fisica e tutto il suo aspetto, anche per via della veste che da tanto tempo non più cambiata, appariva stanco e disperato. Alzò i saliscendi del cancello ed entrò adagio. Tom, che in quel momento era proprio accosto alla ruota mugghiante, non udì il rumore del cancello, ma ecco si volse. Alzando gli occhi, vide quella figura che col viso stanco e l'aria desolata parve confermare le sue peggiori congetture. Si fermò, tremante e pallido di disgusto e di sdegno. Anche Maggie si fermò a tre passi da lui. Sentì l'odio in quel volto, se lo sentì passare attraverso tutte le fibre, ma doveva parlare. «Tom», cominciò come venendo meno, «sono tornata da te, sono tornata a casa per trovare un rifugio, per confessarvi ogni cosa». «Non troverai una casa qui da me», egli rispose con un tremito di rabbia. «Tu ci hai disonorati tutti, hai disonorato il nome di mio padre, sei stata una maledizione per i tuoi parenti, ti sei dimostrata bassa, subdola, non c'è nulla che ti serva di ritegno, di te mi lavo le mani per sempre, tu non sei più nulla per me». In quella la mamma era venuta sulla porta. Si fermò paralizzata dal duplice colpo di veder Maggie e di udire le parole di Tom. «Tom», disse Maggie con più coraggio, «forse non sono colpevole quanto mi credi. Non ho mai avuto intenzione di cedere ai miei sentimenti. Ho lottato contro di essi. La barca mi ha trascinata troppo lontano perché potessi rientrare giovedì. Ho fatto ritorno appena ho potuto». «Non ti posso più credere», disse Tom, passando a poco dalla tremante agitazione del primo momento a una fredda inflessibilità. Tu hai covato di nascosto una relazione con Stephen Guest, come già avevi fatto con un altro. Egli è stato a visitarti a casa di zio Moss, tu sei andata sola con lui in giro per i sentieri. Ti sei comportata col fidanzato di tua cugina come nessuna ragazza per bene si sarebbe permessa, altrimenti queste cose non sarebbero accadute. La gente di Lacrith vi ha veduti passare. Poi avete varcato tutti gli altri paesi, sapevate bene ciò che stavate facendo. Ti sei servita di Philip Wakeham come di un paravento per ingannare Lucy, la più cara amica che mai tu abbia avuta. Va a vedere in che maniera l'hai saputa ricambiare. È ammalata, incapace di parlare. Mia madre non può avvicinarla per timore di richiamarle il ricordo di te. Maggie era come impietrita, troppo gravemente oppressa dall'angoscia per poter scorgere qualche differenza tra la sua vera colpa e le accuse del fratello, e ancor più per difendersi. Tom, disse torcendosi le mani sotto il mantello, nello sforzo di parlare ancora, qualunque cosa io abbia fatto, me ne pento amaramente e chiedo di scontarla, sono pronta a tutto sopportare, ho bisogno che mi si impedisca di commettere ancora del male. Che cosa potrà impedirtelo? Disse Tom con crudele amarezza. Non la religione, non i tuoi naturali sentimenti di gratitudine e di onore. E lui, lui si meriterebbe di essere preso a fucilate, non fosse che... Ma tu sei 10 volte peggiore di lui. Il tuo carattere e la tua condotta mi fanno orrore. Dici di aver lottato contro i tuoi sentimenti. Già, io ne ho vinti dei sentimenti contro cui lottare, ma li ho vinti. La mia vita è stata più aspra che la tua, ma ho saputo trovar conforto nel compiere il mio dovere. Però con gente come te non voglio averci a che fare. Il mondo saprà che io la sento, la differenza fra ciò che è diritto e ciò che è storto. Se ti trovi nel bisogno, fallo sapere a mia madre e io provvederò. Ma sotto il mio tetto non ci verrai. Mi basta già di dover sopportare il pensiero del tuo disonore. La tua vista mi è odiosa. Lentamente Maggie si allontanava, con la disperazione in cuore. Ma allora l'amore della povera madre atterrita traboccò più forte che qualunque timore. Bambina mia, io verrò con te, tu hai una mamma. Oh, dolce riposo di quell'abbraccio per l'affranto cuore di Maggie, di maggior soccorso che qualunque saggezza è una lacrima, anche una sola di una semplice pietà umana che non ci abbandoni. Tom si volse dentro in casa. Entra, bambina mia, mormorò Mrs. Stalliver. Ti lascerà stare qui a dormire nel mio letto. Non saprà rifiutarlo se glielo chiedo io. No, mamma, disse Maggie a voce bassa con un gemito. Non entrerò mai. Allora aspettami qui fuori, vado a prepararmi e verrò con te. Quando la madre apparve col cappellino in testa, Tom le si fece incontro nel corridoio e le mise del denaro nelle mani. La mia casa sarà sempre la tua, mamma, le disse. Verrai e mi farai sapere tutto quello di cui hai bisogno. Tu tornerai da me. La povera Mrs. Stalliver prese il denaro, troppo spaventata per aggiungere parola. L'unica cosa in lei chiara era quell'istinto di madre per cui doveva andare con la figlia infelice. Maggie stava aspettando fuori del cancello. Prese la mano della mamma e fecero alcuni passi in silenzio. Mamma, le disse alla fine, andremo alla capanna di Luke. Luke mi accoglierà, era tanto buono con me quando ero una bambina piccola. Oramai non c'è più posto per noi, cara. Sua moglie ha tanti bambini. Non so dove andare se non da qualcuna delle zie. Ma ne ho appena il coraggio, disse la povera Mrs. Stalliver, alla quale non rimaneva alcuna presenza di spirito in simile frangente. Maggie tacque per alcuni momenti e poi disse: Andiamo da Bob Jakin, mamma. Sua moglie avrà posto per noi se non ci sono altri pigionali. Così si diressero a St. Oaks, alla vecchia casa sulla riva del fiume. Bob era in casa, anche lui con un peso sul cuore che resisteva perfino alla nuova gioia e all'orgoglio di possedere un piccolo di 2 mesi, certo il più vispo per quell'età che fosse mai nato a principe o a merciaiuolo. Forse egli non avrebbe così completamente capito tutta la stranezza dell'apparizione di Maggie con Mr. Stephen Guest sulla banchina di Mudport, se non fosse stato testimone degli effetti che la notizia aveva prodotti su Tom allorché gliel'aveva recata. E da quel momento in poi i particolari, che comunque conferivano un disastroso carattere a quella fuga, erano passati attraverso i più eleganti circoli di St. Oaks ed erano divenuti materia di comune conversazione, accessibile ai servitori e ai commissionari. Sicché, quando aprì la porta e si vide davanti Maggie, in quello stato d'angoscia e di stanchezza, non ebbe alcuna domanda da farle, tranne una, che appena osò rivolgere a se stesso. Dov'era Mr. Stephen Guest? Per parte sua Bob sperava che fosse nel luogo più caldo di un soggiorno notoriamente esistente nell'altro mondo, ad uso dei signori che con tutta probabilità vi si troveranno in condizioni decadute. Le camere erano libere e tanto Mrs. Jakin, la grossa, quanto Mrs. Jakin, la piccola, ricevettero l'ordine di preparare tutte le comodità per la vecchia signora e la giovane signorina. Ahimè, era ancora signorina. L'ingegnoso Bob era dolorosamente intrigato circa il modo come si era potuto produrre un simile risultato. Come Mr. Guest si fosse potuto allontanare da lei, l'avesse lasciata andar via quando aveva la possibilità di tenersela con sé. Ma rimase zitto e non permise a sua moglie di fargli alcuna domanda. Nemmeno volle presentarsi nella camera, per tema che paresse indiscrezione o desiderio di spiare, già che serbava verso Maggie dagli occhi neri gli stessi sentimenti cavallereschi dei giorni in cui le aveva recato il memorabile dono dei libri. Se non che, un giorno o due dopo, Mrs. Tulliver era tornata al mulino per poche ore a vedere l'andamento della casa di Tom. L'aveva voluto Maggie. Dopo il primo violento sfogo di sentimenti prodottosi, non appena le era venuto meno uno scopo attivo da raggiungere, sentiva minor bisogno della presenza materna. Desiderava anzi di restar sola col proprio dolore. Ma non era rimasta che pochi minuti, solitaria nel vecchio salotto prospiciente il fiume, quando sentì bussare alla porta. Volgendo il viso triste mentre diceva «Avanti», vide Bob che entrava col piccino in braccio e Mumps alle calcagna. «Ce ne andremo, miss, se vi disturba», disse Bob. «No», disse Maggie a bassa voce con un desiderio di poter sorridere. Richiusa la porta dietro le spalle, Bob venne a mettersi davanti a lei. «Ecco, abbiamo avuto un piccino, miss, e io desideravo che voi lo vedeste e lo prendeste in braccio, se volete essere tanto buona. Siccome ci siamo presi la libertà di ricordare il vostro nome nel suo, sarebbe bene che faceste un po' di conoscenza con lui». Maggie non poté parlare, ma tese le braccia ad accogliere il piccolo, mentre Mumps fiutava con inquietudine per accertarsi che questo trapasso fosse in regola. Allato alle parole di Bob, Maggie s'era sentita il cuore che le si gonfiava. Capiva abbastanza bene che era quello il modo da lui scelto per attestarle la propria simpatia e il proprio rispetto. «Sedetevi, Bob», gli disse subito, ed egli si sedette in silenzio, trovandosi una lingua indocile, cosa che non gli era mai successa, e ribelle a dire ciò che gli voleva. «Bob», ella disse, dopo qualche minuto, guardando il bimbo e tenendolo con ansia, come per tema di non sapergli badare o di lasciarselo sfuggire dalle mani, «ho un favore da chiedervi». «Oh, non mi parlate così, miss», disse Bob, afferrando Mumps per la pelle del collo. «Se c'è qualche cosa che io possa fare per voi, sarà per me un giorno guadagnato. Vorrei che andaste dal dottor Ken e chiedeste di parlargli, per dirgli che son qui e che gli sarei tanto riconoscente se venisse da me, mentre mia madre è assente, non rientrerà che a sera». «Miss, per me lo faccio in un momento, non è che un passo, ma la moglie del dottor Ken è morta, debbono seppellirla domani». «È mancata il giorno che io sono venuto da Mudport. Ed è tanto più peccato che sia morta proprio adesso che voi avete bisogno di lui. Non so se oso di andarci ora». «Oh no, Bob», disse Maggie, «lasciamo stare. Tra qualche giorno, magari, quando sentirete che gli torna a uscire. Ma forse andrà fuori della città, si allontanerà», soggiunse, presa da un nuovo senso di scoraggiamento a questa idea. «Oh, non lui, signorina», disse Bob. «Lui non se ne andrà via. Non è uno di quei gentiluomini che vadano a piangere nei siti di villeggiatura quando perdono la moglie. Ha un monte di cose da fare. Alla parrocchia ci bada bene e sul serio lui. Me l'ha battezzato lui, il piccino, ed è perfino venuto a casa mia per sapere cosa avevo fatto una certa domenica che non ero andata in chiesa. Ma io gli ho detto che passo in viaggio i tre quarti delle domeniche, e poi che sono così abituato a stare su due piedi che non posso rimanere seduto per tanto tempo. E poi, signore, gli dico, un merciaiuolo può contentarsi di una piccola porzione di chiesa. Ha un sapore così forte, gli dico, che non c'è bisogno di prenderla a grosse dosi. Miss, Come sta buono il piccino con voi? È come se vi conoscesse. E un poco vi conosce, lo giurerei, come gli uccelletti conoscono il mattino. Ormai la lingua di Bob si era evidentemente sciolta dall'insolito impaccio e semmai correva il pericolo di far più lavoro di quel che le fosse richiesto. Ma gli argomenti su cui egli desiderava di essere informato erano così complicati e difficili da abbordare che la sua lingua si sentiva più disposta a correre in piano che a portarlo per quelle strade impervie. Egli se ne accorse e tornò a tacere per qualche istante, ruminando parecchio sulle varie forme in cui avrebbe potuto presentare una domanda. E finalmente, con voce un po' più timida del consueto, disse: «Volete permettermi di domandarvi solo una cosa, miss?» Maggie fu alquanto colpita, ma rispose: «Sì, Bob, se riguarda me, ma se riguarda altri, no.» «Bene, miss, ecco. Avete del rancore contro qualcuno?» «No, contro nessuno», disse Maggie, alzando su di lui uno sguardo interrogativo. «Perché?» «Oh, mio Dio, miss», disse Bob, pizzicando più forte che mai il collo di Mumps. «Avrei voluto ne aveste, lo diceste a me, che lo concerei fino a non vederci più, lo concerei, e poi la giustizia potrebbe fare di me ciò che vuole.» «Oh, Bob», disse Maggie debolmente sorridendo, «siete davvero un buon amico per me, ma io non vorrei punire nessuno, quando anche mi avessero fatto dei torti, sono stata io, troppo spesso, a fare dei torti ad altri.» Un tal modo di vedere le cose era imbarazzante per Bob e gettava un'oscurità più forte che mai su quel che era potuto avvenire tra Steven e Maggie. Ma altre domande sarebbero state troppo indiscrete, anche se egli avesse potuto formularle in maniera conveniente, e poi doveva riportare il bambino a una madre in attesa. «Forse che gradireste la compagnia di Mumps, miss?» disse quando si fu ripreso il bambino. «È una rara compagnia, questo Mumps. Lui sa tutto, ma non per questo si mette a dare dei fastidi. Se glielo dico io, si stenderà davanti a voi a farvi la guardia, tutto tranquillo, come quando fa la guardia al mio fagotto. Dovreste permettermi di lasciarvelo un poco, vi si affezionerà. Santo Dio, è una gran cosa di avere un animale muto, che vi voglia bene, vi sarà di appoggio senza far pettegolezzi.» «Sì, lasciatemelo, per favore», disse Maggie. «Credo che mi farà piacere di avere l'amicizia di Mumps.» «Mumps, cuciali», disse Bob, indicandogli un posto di fronte a Maggie, «e non ti muovere finché non te lo si dica.» Mumps si accucciò subito e non diede segni di irrequietezza quando suo padrone lasciò la stanza. 2. St. Ogg's esprime il suo giudizio. Si seppe ben presto per tutta St. Ogg's che Miss Tulliver era tornata. Non era dunque fuggita per sposarsi con Mr. Stephen Guest. In ogni caso, Mr. Stephen Guest non l'aveva sposata, che era tutt'uno per quel che concerneva la colpevolezza di lei. Noi giudichiamo il prossimo dai risultati, e come potremo altrimenti quando non conosciamo le vie per cui quei risultati sono stati raggiunti? Se Miss Tulliver, dopo qualche mese di viaggio ben scelto, fosse tornata moglie di Stephen Guest, con un corredo fatto dopo le nozze e tutte le prerogative spettanti anche alla più invisa moglie di un figlio unico, la pubblica opinione, che a St. Ogg's, come in ogni altro luogo, sa sempre quel che deve pensare, avrebbe dato il suo giudizio in stretta relazione con quei risultati. La pubblica opinione in simili casi è sempre di genere femminile. Non si tratta del mondo, ma della moglie del mondo. E questa avrebbe veduto due bei giovani, lui appartenente alla primissima famiglia di St. Ogg's, che trovatisi in una falsa posizione erano stati trascinati da un modo di agire gravemente insensato, per dir poco, e tale da produrre dolore e penoso disinganno, massime a quella cara e giovane creatura che era Miss Dean. Certo che Mr. Stephen Guest non si era comportato bene, ma infine i giovanotti sono soggetti a queste passioni subitanee ed infatuate. E per quanto potesse far cattiva impressione che Mrs. Stephen Guest avesse accettato le profferte anche più discrete del corteggiatore di sua cugina, in realtà si era sentito dire che a quell'epoca era impegnata col giovane Wakeham, perfino il vecchio Wakeham ne aveva parlato. In fondo era molto giovane. E poi un giovanotto deforme, sapete, invece il giovane Guest è tanto affascinante. D'altronde dicono che veramente la adori, cosa che certo non può durare. E poi è scappato in barca con lei, che però non era affatto d'accordo, ma cosa poteva fare? Tornare indietro no di certo, nessuno le avrebbe più rivolto la parola. E come le sta bene alla figura quella seta color paglierino. Pare che le pieghe sul davanti siano l'ultima moda. Parecchi dei suoi vestiti sono fatti così. Dicono che lui non trova mai niente di abbastanza bello da comperarle. Povera Miss Dian, fa molta pena. Ma in fondo un vero fidanzamento non c'era e l'aria di mare le gioverà. Dopotutto, se il giovane Guest le voleva così poco bene, meglio per lei di non averlo sposato. Che magnifico matrimonio per una ragazza come Miss Tulliver, eh? Proprio una cosa romantica. E lo sapete che il giovane Guest si presenterà candidato per il borgo alle prossime elezioni? Oh, niente vale il commercio al giorno d'oggi. Quel giovane Wakeham è quasi uscito di senno, piuttosto bizzarro, già, lo è sempre stato. Adesso però, per togliersi dai piedi, è tornato ad andar via. La miglior soluzione, veramente, per un giovane deforme. Miss Unit dichiara che non farà mai visita a Mr. e Mrs. Stephen Guest. Che assurdo pretendere d'essere migliore degli altri. La società non andrebbe più avanti se ci si mettesse a indagare così nella condotta privata. E poi il cristianesimo ci insegna a non pensar male. La mia opinione è che Miss Unit non abbia ricevuto l'invito. Ma i risultati, lo sappiamo, non erano tali da giustificare queste attenuanti sul passato. Maggie era tornata senza corredo, senza marito, in quella posizione degradante e sclassificata a cui si sa che l'errore conduce. E la moglie del mondo, con l'acuto istinto che le è dato a salvaguardia della società, vide subito che la condotta di Miss Tulliver era stata della specie più condannabile. Che poteva esserci di più abominevole? Una ragazza che doveva tanto ai suoi parenti, che aveva ricevuto, lei non meno che sua madre, tante prove di bontà dai Dian. Concepire l'idea di portar via l'affezione di un giovanotto a sua cugina, che era stata per lei come una sorella. Portar via l'affezione non era la frase più adatta per una ragazza come Miss Tulliver. Più giusto sarebbe stato dire che si era lasciata semplicemente condurre da un'impudenza indegna di una donna e da una sfrenata passione. In lei c'era sempre stato qualcosa di poco chiaro. Quella relazione col giovine Wakeham, che si diceva era durata degli anni, non era punto bella, disgustosa anzi. Ma già, una ragazza con quel carattere, perfino nel fisico di Miss Tulliver c'era stato sempre, per la moglie del mondo, qualcosa in cui un istinto raffinato doveva scorgere un presagio di guai. Quanto al povero Mr. Stephen Guest, più che altro faceva pena. In simili casi un giovanotto di 25 anni non deve essere giudicato troppo severamente. In fondo, sì, è alla mercé di una donna, calcolatrice e temeraria. Ed era chiaro che aveva ceduto suo malgrado e si era liberato di lei non appena aveva potuto. Davvero che quell'essersi lasciati non significava niente di buono per lei? Vero è che gli aveva scritto una lettera prendendo su di sé tutti i torti e raccontando le cose in maniera romantica per tentargli far apparire del tutto innocente. Era naturale che dovesse far così, ma l'istinto raffinato della moglie e del mondo non si lascia ingannare. Per fortuna, altrimenti che avverrebbe della società? Ma come? Se il fratello stesso l'aveva messa alla porta, bisognava che ne sapesse abbastanza, potete ben dirlo prima di fare una cosa simile. Un giovane veramente rispettabile, quel Mr. Tom Tulliver, uno che farà di sicuro la sua strada nel mondo. Naturalmente il disonore della sorella era un colpo grave per lui. Sperabile che quella se ne sarebbe andata fuori del paese, in America o altrove, per purificare l'aria di St. Oaks dal miasma della sua presenza, tanto pericoloso per le altre figliole. Del bene non gliene poteva toccare. C'era soltanto ad augurare che si pentisse. E Dio ne avesse misericordia, lui che non aveva da prendersi cura della società come la moglie del mondo. Ci volle circa una quindicina di giorni perché quell'istinto delicato arrivasse a controllare siffatte divinazioni. In realtà era passata un'intera settimana avanti che giungesse la lettera in cui Steven raccontava i fatti a suo padre, aggiungendo che gli era passato in Olanda dopo essersi rivolto all'agente di Mudport per il denaro e che per il momento si sentiva incapace di qualunque decisione. Durante questo tempo, Maggie era stata tutta presa da un'ansia troppo angosciosa per poter dedicare anche un solo pensiero all'opinione che l'agente di St. Oaks era venuta assumendo circa la sua condotta. Ansia per Steven, per Lucy, per Philip, che percuoteva il suo povero cuore in un'aspra, turbinosa, incessante tempesta d'amore e di rimorso e di pietà. Se avesse comunque pensato d'essere fatta segno al disprezzo e all'ingiustizia, Le sarebbe parso tuttavia che il peggior male le era ormai stato inflitto, che dal mondo ormai non poteva più ricevere colpi insopportabili dopo le parole che aveva udite dalle labbra di suo fratello. In mezzo a tutta la sua ansia per colui che amava e per coloro che aveva offesi, quelle parole tornavano a colpirla come una orribile angoscia che avrebbe gettato pena e terrore anche in mezzo a un paradiso di delizie. L'idea di poter ritrovare la felicità non balenava più, nemmeno per un momento, al suo spirito. Pareva che tutte le sue fibre sensibili fossero troppo interamente invase dal dolore per tornar mai a vibrare sotto altri richiami. La vita si stendeva davanti a lei come un solo atto di penitenza, e a null'altro anelava se non a qualcosa che la preservasse da ulteriori cadute. La sua debolezza la ossessionava come un incubo di possibilità spaventose, né le lasciava concepire altra pace che quella derivante dalla sensazione di un rifugio sicuro. Non rimaneva tuttavia senza propositi di vita pratica. L'amore dell'indipendenza era in lei un'eredità e un'abitudine troppo forte per non richiamarla al dovere di guadagnarsi il suo pane, e quando gli altri progetti le apparivano vani, ripiegava su quello di tornare ai lavori di cucito e guadagnarsi tanto da pagare a Bob la propria pigione. Voleva persuadere la mamma a tornare prima possibile al mulino e a riprendere la vita in comune con Tom. Lei, in un modo o nell'altro, avrebbe tirato avanti a St. Oaks. Il dottor Ken poteva forse darle aiuto e consiglio. Si ricordava delle parole con cui egli l'aveva lasciata al banco di beneficenza. Si ricordava del momentaneo senso d'appoggio che aveva provato mentre egli le parlava e attendeva con ansioso desiderio l'occasione di confidargli ogni cosa. La mamma andava ogni giorno da Mr. Dean per avere notizie di Lucy. La risposta era sempre scoraggiante. Nulla finora era valso a riscuoterla da quello stato di languente inerzia in cui era caduta al primo colpo. Ma di Philip, Mrs. Tulliver non aveva saputo nulla. Naturalmente nessuno di quelli che incontrava le avrebbe parlato di cose che avevano rapporto con sua figlia. Ma alla fine la trovò il coraggio di andare dalla sorella Glegg, che certamente sapeva ogni cosa e anzi, durante l'assenza di Mrs. Tulliver era stata al mulino a visitare Tom, il quale però non aveva fatto parola di quanto era successo durante quella visita. Appena la mamma fu uscita, Maggie si mise il cappello. Aveva risoluto di andare al rettorato a cercare di vedere il dottor Ken. Questi era in uno stato di profondo cordoglio, ma l'altrui cordoglio in simili occasioni non ci allontana. Era la prima volta dal suo ritorno che Maggie varcava la porta. Nondimeno aveva l'animo talmente preso dallo scopo per cui era uscita che non le venne neppure fatto di pensare al disgusto di incontrar gente per via ed esserne guardata. Ma attraversate appena le strette viuzze per cui doveva passare, uscendo dall'abitazione di Bob, si accorse di insoliti sguardi che le venivano lanciati, il che le fece affrettare nervosamente il passo, timorosa di guardare a destra e a sinistra. Ben presto, tuttavia, si trovò di fronte a Mrs. e a Miss Turnbull, vecchie conoscenze della sua famiglia. Entrambe la guardarono stranamente e accennarono a volgersi dall'altra parte senza parlarle. Ogni sguardo ostile era una pena per Maggie, ma ella aveva troppo da rimproverarsi per potersene risentire. Nessuna meraviglia che non mi vogliano parlare, pensò. Vogliono tanto bene a Lucy. Ma ecco, s'accorse che stava per passare accanto ad un gruppo di signori fermi sulla porta della sala da biliardo e non poté fare a meno di vedere il giovane Torri che si avanzava di qualche passo col monocolo all'occhio e le lanciava un saluto con l'aria disinvolta che avrebbe potuto dedicare a qualche cameriera di caffè sua intima. Maggie era troppo acutamente orgogliosa per non accusare quella puntura pur tra le altre sue pene e per la prima volta si sentì stretta dal pensiero che un altro biasimo sarebbe caduto su di lei, oltre a quello che sapeva di aver meritato, mancando di lealtà verso Lucy. Ma era giunta ormai al rettorato, qui forse avrebbe trovato qualcos'altro che una punizione. La punizione può venire da chiunque. Il più grossolano, il più crudele, il più brutale monello dell'angolo di strada può infliggerla. Ma il soccorso e la pietà sono cose più rare, tanto più necessario quindi che i giusti le accordino. Subito dopo essere stata annunziata, fu introdotta nello studio, dove il dottor Ken, tra libri ammonticchiati verso i quali non si sentiva molto attratto, Sedeva con una guancia appoggiata sul capo del più piccolo dei suoi figli, una bambina di 3 anni. La bimba fu condotta via dalla domestica quando la porta fu chiusa. Il dottor Ken, disponendo una sedia per Maggie, disse: «Stavo per venirvi a vedere, Miss Tulliver. Voi mi avete prevenuto e ciò mi fa piacere». Maggie lo guardò con la sua franchezza infantile come al banco di beneficenza e disse: «Ho bisogno di raccontarvi tutto». Ma mentre così diceva, gli occhi subito le si riempirono di lacrime e tutta l'agitazione raffrenata in quell'umiliante tragitto volle avere sfogo avanti che ella potesse aggiungere altro. «Raccontatemi tutto», disse il dottor Ken con una calma benevolenza nella voce grave e ferma. «Consideratemi come una persona a cui è stata accordata una lunga esperienza che può metterla in grado di aiutarvi». In frasi assai rotte e con un certo sforzo dapprima, ma poi subito con quella maggior facilità che le veniva dal sollievo di confessarsi, Maggie raccontò la breve storia di una lotta che doveva essere solo l'inizio di una lunga pena. Soltanto il giorno prima il dottor Ken era stato messo al corrente del contenuto della lettera di Steven, a cui subito aveva creduto, anche senza la conferma della testimonianza di Maggie. Quell'involontario lamento di lei: «Oh, bisogna che io vi lasci!» gli era rimasto impresso come il segno che ella era preda di qualche conflitto interiore. Maggie indugiò a lungo sul sentimento che l'aveva fatta tornare presso la madre e il fratello ad attaccarsi a tutte le memorie del passato. Quando ebbe terminato, il dottor Ken rimase per alcuni minuti in silenzio. C'era una difficoltà che s'affacciava al suo spirito. Si alzò e si mise a passeggiare davanti al camino, con le mani sul dorso. Finalmente tornò a sedersi e disse, guardando Maggie: «L'impulso di riparare presso i vostri parenti più vicini, di rimanere là dove si sono formati tutti i legami della vostra vita, è un giusto impulso a cui la Chiesa, nella sua originaria costituzione e disciplina, risponde con l'aprire le proprie braccia al penitente, col vegliare fino all'ultimo sui suoi figli, col non mai abbandonarli finché non siano dei reprobi senza speranza. E la Chiesa dovrebbe rappresentare il sentimento della comunità, in guisa che ogni parrocchia fosse una famiglia tenuta insieme dalla fratellanza cristiana sotto un padre spirituale. Ma le idee di disciplina e di fraternità cristiana si sono completamente rilassate. A malapena può dirsi che sussistano nello spirito pubblico. A malapena sopravvivono, se non nella forma parziale e contraddittoria che hanno assunta presso le strette comunità degli scismatici. E se io non fossi sostenuto dalla ferma fede che la Chiesa dovrà alla fine recuperare in tutta la sua forza, quella Costituzione che sola è appropriata agli umani bisogni, molte volte mi perderei d'animo, vedendo come nel mio gregge manchi la fratellanza e il senso di mutua responsabilità. Attualmente tutto par che tenda a menomare la forza dei vincoli, a sostituire il capriccio arbitrario alla fedeltà verso gli impegni radicati nel passato. La vostra coscienza e il vostro cuore vi hanno illuminata su questo punto di luce veritiera, Miss Tulliver, e io vi ho detto queste cose perché possiate conoscere quali sarebbero i miei desideri a vostro riguardo, quali i consigli che vi darei se questi debbono scaturire dal mio sentimento e dalla mia opinione, incrollabili anche di fronte alle circostanze che le smentiscono». Il dottor Ken tacque per un breve momento. Ogni dimostrazione esteriore di benevolenza era assente dai suoi modi. C'era anzi qualcosa di quasi freddo nella gravità del suo sguardo e della sua voce. Se Maggie non avesse saputo che quella benevolenza era tanto più ferma quanto maggiore il riserbo, si sarebbe potuta sentire raggelata e intimidita. Comunque, ella ascoltava con un senso di attesa, perfettamente sicura che da quelle parole le sarebbe venuto qualche aiuto efficace. Egli seguitò: «La vostra inesperienza del mondo, Miss Tulliver, vi impedisce di prevedere appieno le ingiustissime opinioni che probabilmente si verranno formando circa la vostra condotta, opinioni che sortiranno un effetto funesto anche a dispetto delle prove evidenti che le sconfessano». «Oh, me ne accorgo, comincio ad accorgermene», disse Maggie, incapace di reprimere questo sfogo della sua pena recente. «So che mi insulteranno, che mi riterranno peggiore di quel che sono». «Forse però non sapete ancora», disse il dottor Ken con un accento di più personale pietà, che è giunta una lettera da cui tutti coloro che han saputo qualcosa di voi dovrebbero convincersi che avete scelto l'impervio e difficile sentiero del ritorno al bene, proprio nel momento in cui tale ritorno era la cosa più difficile. Oh, e lui dov'è? Disse la povera Maggie con un rossore e un tremito che nessuna presenza sarebbe valsa a contenere. È andato all'estero, ha scritto a suo padre tutto quanto è successo, vi ha giustificata quanto più si poteva e spero che, comunicata a vostra cugina, quella lettera avrà su di lei un benefico effetto. Il dottor Ken attese che ella tornasse calma prima di proseguire. La lettera, come ho detto, dovrebbe essere sufficiente a stornare ogni falsa impressione sul vostro conto. Ma sono costretto a dirvi, Miss Tulliver, che non solo l'esperienza di tutta la mia vita, ma le mie osservazioni di questi ultimi 3 giorni mi fanno temere che nessuna testimonianza basti a salvarvi dai dolorosi effetti di false accuse. Le persone più incapaci di un travaglio di coscienza simile al vostro sono proprio quelle che più probabilmente rifuggiranno da voi, non potendo credere al vostro travaglio. Ho paura che a vivere in questo paese vi esponiate non solo a molta pena, ma anche a molti ostacoli. Per questa ragione e per questa volta sola vi invito a considerare se non sia forse meglio per voi di prendere un impiego lontano di qui, come già ne avevate intenzione. Io mi darò subito d'attorno per procurarvene uno. Oh, se potessi soltanto restar qui, disse Maggie. Non ho cuore di ricominciare una vita nuova, non avrei dimora, mi sentirei come una viandante solitaria, esclusa dal passato. Ho scritto alla signora che mi aveva offerto un impiego per dispensarmene. Se rimanessi qui potrei forse riscattarmi in qualche modo agli occhi di Lucy e di altri, convincerli della pena che provo e, soggiunse con un lampo del suo antico orgoglio, non voglio scappare perché la gente dice delle cose false sul mio conto. Impareranno a ritrattarle e se alla fine dovrò andar via, perché altri lo desiderano, andrò, ma non adesso. Bene, disse il dottor Ken dopo una riflessione. Se così decidete, Miss Tulliver, potete contare su tutta l'influenza che la mia situazione mi conferisce. Ad aiutarvi e proteggervi, sono tenuto espressamente dai doveri del mio ufficio di pastore della parrocchia. Aggiungerò che personalmente ho un profondo interesse per la pace dell'anima vostra e per il vostro bene. La sola cosa che mi occorre è un'occupazione che mi metta in grado di guadagnarmi il pane e di vivere indipendente, disse Maggie. Non avrò bisogno di molto, posso continuare ad abitare dove sto. Devo ponderare la cosa con calma, disse il dottor Ken, e tra pochi giorni potrò meglio rendermi conto dell'opinione generale. Verrò a vedervi, non cesserò di tenervi presente. Quando Maggie lo ebbe lasciato, il dottor Ken rimase a meditare con le mani dietro il dorso e gli occhi fissi sul tappeto, oppresso da una penosa sensazione di dubbio e di difficoltà. Il tono della lettera di Steven che gli aveva letta e gli attuali rapporti tra tutte le persone interessate lo riconducevano prepotentemente all'idea che in fondo un matrimonio tra Steven e Maggie era il meno male, e in ogni altra ipotesi l'impossibilità che vivessero entrambi a St. Ogg's se non dopo anni di separazione creava un'insormontabile difficoltà alla permanenza di Maggie. D'altra parte, con tutta la comprensione di un uomo che ha conosciuto i conflitti spirituali e ha vissuto anni di devoto servigio ai propri simili, egli penetrava lo stato d'animo e di coscienza per cui consentire un tale matrimonio appariva a Maggie una profanazione. Quella coscienza non doveva venire turbata. I principi secondo cui ella aveva agito erano una guida più salda che qualunque calcolo pratico. La sua esperienza gli diceva che un intervento costituiva una responsabilità troppo malcerta per essere affrontato con leggerezza. Sia che gli tentasse di rimettere Maggie nelle relazioni di prima, con Lucy e con Philip, sia che le consigliasse di abbandonarsi a questo sgorgo di un nuovo affetto. L'esito era avvolto in un'oscurità tanto più impenetrabile in quanto ogni iniziativa immediata si urtava contro un grande male. Il gran problema degli stabili rapporti tra passione e dovere non riesce chiaro a nessuno di quelli che siano in grado di mettersi a pensarci.